Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. I funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Perché si cammina sul filo, dice la nostra presigla, perché siamo i funamboli e siamo tornati. Buon venerdì 13 a tutti i superstiziosi, cara Veronica. La notizia è che sia venerdì 13 o che sia comunque venerdì? Perché... è venerdì 13. Tu non devi mai citare quella parola. Posso non segnalare al mondo, poi faremo una puntata impegnativa, densa di argomenti, fonti anche di ansia su tante cose, però uno poi si ricorda che è venerdì. È venerdì, no, ma infatti non vi vogliamo però ansiolizzare, dite, no, state con noi, non vi ansiolizzerete, perché raccontiamo l'Italia dei funamboli con tante belle storie. Buon venerdì 13 a tutti. Superstizioso? No, per niente. Essere superstiziosi porta sfortuna, questo è notorio, e quindi no. Ce ne eravamo occupati una volta, mi ricordo che sfidavi tutte le superstizioni del credo. Certo. Tu sei quello che balla sotto le scale, no? No, ballare no. Balla perché? Con i gatti neri sotto le scale. Perché dovrei ballare sotto le scale? Passo però, se è necessario passarci, se non è necessario non ci passo, no? È uguale. Vabbè, insomma, non sei particolarmente fiscale sulla questione. No, per nulla. Eccolo, allora. Vedi? Mentre dalla regia arrivano segnali molto contraddittori. Molto contraddittori, sì, è il nostro Peter Bescapè. Allora, le 9:11 minuti, cara Veronica, tra l'altro sai che ci siamo occupati spesso in passato anche di furbetti del cartellino, quelli che timbrano e vanno a fare gli affari propri praticamente. Ecco, solo che a Bari è successo che due timbravano e sono stati beccati a fare gli usurai. Cioè ormai c'è una applicazione 4.0 anche nell'orrore in quello che leggiamo, non c'è neanche più timbro, vado a fare la spesa, no, vado a fare l'usuraio. Anche i reati si evolvolvono, capito? Basta più, vado dal parrucchiere, vado a fare la spesa. Ah, ragazzi, però persone che avranno anche vinto un concorso, forse hanno giurato in qualche modo fedeltà allo Stato, visto che fanno dipendenti pubblici, dovrebbero fare qualcosa proprio per la comunità, non solo timbravano e andavano via, ma... perché il loro profondo senso etico dello Stato gli ha suggerito che l'usura potesse essere un'attività che contribuisse al bene sociale. Alle 9:12 minuti siamo qui, cara Veronica. Ora vogliamo partire da un tema molto molto pregnante, un tema purtroppo ancora molto presente nella nostra società, cioè noi e le droghe. Sai che io direi più che molto presente ancora, sempre di più purtroppo, perché ahimè, a proposito di evoluzioni, anche qui le droghe purtroppo si evolvono e diventano sempre più difficilmente rintracciabili. E vogliamo spiegare anche che sono in nuovi circuiti, sempre più moderni, purtroppo, perché si aggiorna anche l'offerta, e da qui vogliamo partire. È cambiato. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind. Non abbiamo dato il numero 800240024, oppure per gli sms 349-238-6666. Anche i WhatsApp, non ti piacciono i WhatsApp? No, dico sms un po' come sono molto analogica e vetusta. I WhatsApp anche in audio, mi raccomando. Mi ha molto colpito, cara Veronica, leggere il reportage di ieri della Stampa, di cui parliamo, che fa un po' anche, non dico contrasto, ma oggi Lorenzo Cremonesi invece sul Corriere della Sera fa una lunga pagina in cui racconta che ancora esiste la vendita di droga per strada, no? Gli spacciatori agli angoli, spesso purtroppo vengono reclutati anche i migranti, persone che non hanno che vivono così nelle città senza artene parte e si riciclano, no, in questo tipo di delinquenza ai crocicchi delle strade. Però sì, la stampa invece raccontava, anche se in realtà il reportage di ieri sembra molto più allarmante, appunto come dicevo prima, nel riuscire a monitorare e a tenere d'occhio questo fenomeno, perché c'è stato un grande cambiamento sia nelle sostanze stesse che vengono utilizzate, quindi nella loro composizione chimica, sia anche nel tipo di acquisto che si fa. Cioè esistono dei veri e propri supermercati online, quello che si chiama, sì, il cosiddetto deep web, no? Cioè la parte più sepolta del web, quindi a cui non si accede tramite in motori di ricerca normali. Si riesce ad arrivare ad acquistare qualsiasi cosa a dei prezzi sui quali poi interrogheremo anche i nostri ospiti per capire il range in cui ci si muove, e si acquistano sostanze di cui non si conosce la composizione. E lo si fa tra l'altro come andare in quei supermercati, quelli assolutamente leciti, adesso non voglio fare pubblicità, ma forse è più famoso, no? Quando uno va su Amazon, clicca, certo, paga e poi arriva il postino. Compro, scelgo e ordino a casa e il postino me lo porta a casa. Cioè, come se fosse un acquisto totalmente normale. E il paradosso, Alessandro, è che spesso è normale, nel senso che sono sostanze che non sono ancora state bandite come illegali, perché proprio attraverso questi giochi, proprio pozioni quasi, con le sostanze chimiche, si gioca in quel confine sottilissimo tra legalità e illegalità. Ne vogliamo parlare con i nostri ospiti. Salutiamo Nadia Gennari, che è responsabile degli operatori delle nuove droghe dell'ASL 1 di Torino. Buongiorno e grazie di essere qui. Così come salutiamo Carlo Locatelli, è un tossicologo, dirige il Centro Nazionale di Informazione Tossicologica della Maugeri a Pavia. Eccoci, buongiorno, professor Locatelli. Buongiorno. Tra l'altro, professor Locatelli fa proprio... questo ieri era definito dalla stampa lo scienziato sceriffo, nel senso che deve proprio controllare controllate tutte le sostanze nuove. Quante ve ne vengono prodotte di continuo? Guardi, al momento sul mercato si parla, perlomeno in agenzia europea, si parla di circa 700 molecole che sono disponibili sul mercato per l'abuso, sul mercato internet ovviamente, sul mercato via web. Sono in continuo aumento, queste aumentano con una frequenza, ne escono 100 erotti nuove all'anno circa. Capite, 100. Ma tendenzialmente quanto ci vuole a recuperare una sostanza, a capire che quella sostanza sia illegale e riuscire a metterla fuori dal commercio? Beh, quella è una procedura che è normata in Italia come in tutti gli altri paesi. Occorre avere i dati che dimostrano che quella molecola causa dei danni alla salute ed è in commercio, è stata assunta da qualcheduno, ha causato dei danni, dopodiché c'è una procedura che viene seguita che porta attraverso varie tappe a portare il Ministero della Salute a inserirla nelle tabelle delle sostanze dannose proibite, e quindi da quel momento lo diventa. Ci vogliono alcuni mesi oggi in Italia, era un processo che inizialmente anni fa richiedeva 2 anni, oggi è molto velocizzato e speriamo che possa essere sempre più veloce, anche perché è sempre più veloce l'emissione in circolazione di queste molecole. Sì, tra l'altro bisogna capire che tutte queste nuove droghe sono spesso a prezzi stracciati forniti sul mercato. Sostanzialmente sì. Questo è il punto, però, che i ragazzini anche con la paghetta cosiddetta, no, hanno una maggiore possibilità di accedere, per cui diventa anche sempre più precoce l'assunzione di queste sostanze. E guardi, il fatto è che i ragazzini, così come gli adulti, per amor del cielo, perché metà della casistica che abbiamo è fatta da adulti, non solo da ragazzini, quindi non stiamo colpevolizzando la giovane età rispetto al resto, tutt'altro, però di fatto c'è una grossissima disponibilità, perché sono tutti collegati in web, sono tutti regolarmente sul web, quindi la disponibilità, il mercato si vede immediatamente, qualunque cosa in quel momento, in qualunque posto in quel momento uno sia, quindi è sempre in rete, è sempre collegato e sempre vede che cosa ci può essere. Il costo è quasi equivalente a quello di una cosiddetta canna, quindi oramai siamo a dei prezzi veramente molto bassi, il problema è che a quel costo gli utenti, diciamo così, i consumatori si mettono nel corpo sostanze che spesso non conoscono. Nadia Gennari, che è in prima linea, voglio dire, spesso li vede queste persone che arrivano e che in molti casi, Gennari, davvero non sa la domanda, ma lei cosa ha preso? Perché quando arrivano in condizioni non lo sanno neanche, è così? È così. nel senso che spesso queste sostanze vengono vendute sotto nome di altre sostanze che magari sono conosciute. Spesso si dice ecstasy, i ragazzi pensano di aver preso MDMA, mm-hmm. e invece la molecola che hanno assunto è un'altra, perché non dobbiamo dimenticare quello che già si diceva da studio, che queste sostanze nuove vengono immesse in quanto ancora legali e quindi più facilmente diffondibili, diciamo, rispetto a quelle legali. Ma io volevo capire come sì. fate ad intervenire, nel senso che suppongo che diventi molto più complesso nel momento in cui non si sa che cosa una persona abbia in circolo e quindi i sintomi che poi ci sono a seguire. Come muoversi nell'intervento pratico? Allora, dal punto di vista delle urgenze, le situazioni in cui ci sono delle sintomatologie acute di solito arrivano al pronto soccorso e abbiamo sicuramente visto e osservato negli ultimi anni un aumento del ricovero soprattutto dei minori in reparti psichiatrici, anche in conseguenza dell'uso di queste sostanze. Quello che succede dopo la fase acuta è quella, sono le conseguenze che invece si protraggono nel tempo, perché in alcuni casi, per esempio, si possono innescare dei quadri di natura psicotica che non sempre regrediscono, e quindi anche su rispetto a questo abbiamo visto nel tempo tutta una serie di sintomi che prima non erano così frequenti nei ragazzi. Sì. Ma infatti questo è uno degli aspetti anche molto allarmanti del reportage che leggevamo ieri, cioè il fatto che ci sia un rischio addirittura profondo di sviluppare psicosi e di che venga su una generazione con un alto tasso di psicotici, perché se i problemi non sono reversibili poi in termini psichiatrici rischia di essere gravissimo. Ma non sempre non sono reversibili, per fortuna nostra. Sicuramente se l'uso di sostanze si va ad innestare su un quadro già di predisposizione a sviluppare una patologia di quel tipo, è chiaro che la situazione esplode, no? Magari in modo molto più evidente e marcato rispetto a quanto sarebbe successo. Ma è quello che preoccupa, per carità, non voglio fare il moralista e non lo farò, non voglio fare il trombone, per me se uno, c'è purtroppo la libertà, in questo caso dico purtroppo, nel senso che se uno si vuole sfondare di droga, si sfonda di droga, e spero che i miei figli non lo facciano, io non lo faccio, e tra l'altro mi ha sempre frenato la paura anche fisica della droga, cioè dell'immettere una sostanza nel mio corpo che non conosco. Qui invece siamo a un'evoluzione, cioè si va a cercare delle sostanze che neanche si conoscono. Ecco, è questo che il meccanismo psicologico. Anzi, che quasi mi sfugge, volontariamente. Mi sfugge totalmente. Nadia Gennari, c'è una profilazione di perché si va a immettere nel corpo le sostanze che neanche uno conosce? Cioè si arriva a capire il meccanismo che scatta in una persona per fare questo? Ma io penso che si debba differenziare un po' anche in base all'età. Se parliamo di adolescenti, è chiaro che si è in un'età nella quale si tende a sfidare. Vabbè, ma uno sfida e si fa una canna, uno sfida e sniffa, cioè non sto ovviamente incitando a farlo, ma posso capire il meccanismo che dico per sfida faccio questa cosa, ma per sfida buttati su questa cosa che è un acido, ma non sai neanche che cos'è, cioè è incredibile per me, è incredibile. E ci stanno entrambe le cose, il primo livello può essere quello della canna, come dice lei, e il secondo livello può essere quello di provare delle cose che hanno degli effetti più intensi o differenti. Sì, anche perché poi c'è una sottovalutazione del problema dell'intensità, nel senso si cerca, magari leggevo di queste spice, no? Che sono i cannabinoidi sintetici che poi vengono in qualche modo rafforzati con sostanze chimiche e si tende ad assumerli spesso magari anche con la leggerezza di pensare che sia appunto una canna un po' più forte, quando invece non è così, perché l'effetto psicotropo è molto molto più potente. Certo, certo. Assolutamente. Il vantaggio di queste sostanze, dei cannabinoidi sintetici in particolare, è che non hanno come principio attivo quello della cannabis e quindi non è rilevabile, per esempio, dai test che si fanno abitualmente in ambito tossicologico. E quindi anche per aggirare il rischio di essere in qualche modo scoperti in determinate situazioni facilita quella scelta. In altri casi invece è proprio che la curiosità del provare qualcosa di diverso. Io vorrei chiedere per un attimo al professor Locatelli se esiste il principio ancora, se è valido il principio del ma una canna in fondo non fa male a nessuno, perché sa che poi è la reazione di molti che dicono ma guarda io da anni mi faccio una canna una volta ogni tanto, una volta al giorno, è davvero così innocua, professore? Assolutamente no, noi siamo tossicologi clinici, quindi il nostro problema è curare le malattie da causa chimica e le malattie da causa chimica ci sono anche da cannabis, da tetraidrocannabinolo, quindi c'è sia un danno a lungo termine che riguarda il sistema nervoso centrale, quindi le capacità della singola persona, la quale non si può accorgere che sta perdendo capacità di apprendimento, di memoria e capacità di ragionamento, perché non può accorgersene. Ci si accorge facendo delle valutazioni obiettive di queste cose, e la cannabis è noto che porta a del deterioramento di alcune cellule del cervello, a dei danni che sono permanenti. Oltretutto, in un 8-10% dei casi porta anche la cannabis a psicosi di vario tipo, per cui anche quella è una cosa negativa. E quindi non è affatto da salvare dal punto di vista tossicologico la cannabis, la marijuana o l'hashish. Quindi sono sicuramente sostanze che sono dannose sull'organismo, e dal punto di vista tossicologico sono da evitare assolutamente. Ma leggevo anche, professore, che lei parlava di, in qualche modo si cercano delle droghe sempre più performative, nel senso che lo scopo molto spesso è quello, vero? Allora, noi ci occupiamo di far diagnosi e di documentare i casi, perché oltretutto è un mondo totalmente nuovo, talmente difficile, e nel sistema di allerta precoce della Presidenza del Consiglio dei Ministri il nostro specifico compito è, in mezzo alle varie cose tossicologiche che facciamo, è proprio di identificare questi nuovi casi e capire che cosa succede. Noi documentiamo prevalentemente i casi gravi che finiscono in ospedale e che hanno delle quadri estremamente gravi, finiscono in rianimazione, muoiono, hanno delle psicosi importanti, eccetera. Quindi diciamo che su 15.000 casi che negli ultimi 15 anni abbiamo dovuto cercare di risolvere, perché ci hanno chiesto consulenza da tutta Italia, siamo riusciti a documentarne circa 1.200-1.300 in modo precisissimo anche dal punto di vista analitico. E di tutto questo gruppo di persone, da alcuni dei quali sono deceduti, continuano a morire, per carità, queste cose, molti di questi diventano malati psichiatrici, l'impressione che si ha è che sia proprio cambiato un pochettino il meccanismo di acquisizione, perché le persone prendono le sostanze. Il fatto di cercare di performare e di prendere sostanze che sono oggi prevalentemente eccitanti, perché è vero che ci sono anche i fentanili che mimano l'effetto dell'eroina, degli opioidi, e sono anche più potenti, però la maggior parte delle persone, per quello che si capisce dai casi acuti che vediamo e dal mercato, prende sostanze che sono performanti, che tirano su. Sì, che è abbastanza inquietante, cioè l'idea di farlo per lavorare 20 ore al giorno, poi magari mettersi 18 ore, guidare. Tutti lavorano tanto oggi e si danno da fare per molte ore al giorno, ma di questo è solo una piccola parte, prende sostanze per performare. Non vorrei che fosse una scusa troppo facile. No, no, l'automatismo non c'è. No, ma guardi, visto che ci hanno anche scritto, qualcuno dice: avete fatto credere, non so chi, avete fatto credere che farsi le canne sia normale, quindi quando si vuole trasgredire si esagera. Quello avete fatto credere, no, non lo so. Quelle frasi buttate un po' lì, avete fatto credere chi? Professore stava specificando che il 10% di persone hanno comunque dei danni cerebrali, ma che con queste nuove sostanze ulteriormente rafforzate diventano il 50%, quindi sì, che non ci siano danni proprio non l'ho detto nessuno. Nadia Gennari, l'ultima domanda è la questione dei genitori, come sanno di questi ragazzi che arrivano in condizioni, perché l'età mi sembra sempre più abbassarsi, no? Sì. I genitori sono coscienti quando poi, immagino, vengano chiamati, soprattutto in caso di minorenni, e si dica: guarda che è successo questo? Dipende, no. Ci sono due diverse tipologie di genitori, ci sono quelli che sottovalutano il problema e spesso ci sono quelli che invece lo sopravvalutano, nel senso che in alcuni casi ci troviamo davanti a quadri anche complessi, e i cui genitori dicono: ma sì, alla fine si fa qualche canna, si tratta di un'esperienza legata all'età, e i casi anche completamente opposti. Si tratta di lavorare proprio nella direzione di integrare questo tipo di visione della situazione, quindi far rendere conto anche ai genitori di come si può fare per... Anche perché per i genitori è molto complesso tenere d'occhio tutta quella che è la parte dell'acquisto sul web. Certo. No, più che altro molto spesso si interviene quando gli effetti sono diciamo sopravvenuti. Ecco, ovviamente è arrivato, io lo sapevo dove arriva, infatti era in ritardo il messaggio delle 9:27, è arrivato. Aia. Oh, quante sciocchezze, è anni che mi faccio un paio di canne al giorno e non ho nessun problema. Di solito arriva quasi subito, però essendosi fatto due canne sarà arrivato un po' più tardi il messaggio. Ti ha voluto lasciare il tempo di trattare l'argomento. Salutiamo Max, ovviamente lo ringraziamo. ringraziamo per questo suo contributo che è fondamentale. Allora, quando si parla di droghe c'è sempre mi faccio due canne al giorno e non mi succede niente, ma è arrivato, ero un po' inquietato, pensavo che fosse bloccato WhatsApp e invece, allora, invece vedi funziona, che è arrivato. Allora dai, vogliamo ringraziare il professor Carlo Locatelli e Nadia Gennari per essere stati con noi e raccontare questo spaccato abbastanza inquietante, ma forse anche da conoscere, anche le cose che inquietano vanno un po' approfondite. No, ma soprattutto perché non conoscendole diventa tutto molto più pericoloso, mano a mano che uno inizia perlomeno ad averne consapevolezza, forse è anche più semplice arginarle le cose. Sì. Questo sì. Allora, tra l'altro, tra poco avremo il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, perché c'è una storia particolare. Lì a Parma una dipendente del comune che è condannata in primo grado ha truffato, tra l'altro una cifra cospicua, è 430.000 euro. Hai detto con una certa ammirazione, eh? No, sì, ma che ammirazione, ma che scherzo. È riuscita a portarsi via questo cospicuo bottino al Teatro Regio, nonostante ciò ha anche ottenuto la casa popolare dal comune. Detta allora, così uno non ci crede, dice ma state scherzando. E invece no, questi funambolismi di cui ci siamo occupati, no? Quando la legge diventa veramente oltre il funambolico. Tra poco il sindaco di Parma ci spiegherà come sia stata possibile questa cosa, eh? State con noi. I funamboli. Legalizzarla, perdiamo 14 miliardi l'anno di illegalità, di droga leggera e 7-8 miliardi sulla prostituzione. Ogni anno faremo una manovra di DEF all'anno. Svegliatevi! Va bene, questo è un altro grande dibattito che c'è sulla droga, sì, oltretutto non abbiamo detto che effettivamente sembra che la criminalità organizzata cominci ad infiltrarsi anche in questo nuovo giro di mercato, sì. Come chiaramente quando iniziano a diventare succosi trovano il modo per entrare. Esatto, c'è Giuseppe che ci ha chiamato da Genova all'800 24 0024. Giuseppe, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno alla Veronica. Sì. Buongiorno. Niente, io stavo seguendo la trasmissione, volevo fare una domanda al professor Locatelli, ma non so se non c'è più. Combinazione, mi sono svegliato. Vabbè. Un po'. Vabbè, comunque niente, io la mia domanda è che purtroppo degli amici, visto che si stava parlando della sua fazione della cannabis, che viaggiano col pacchetto delle sigarette con lo spinello dentro. Quindi non danno nell'occhio, tirano fuori, è come se fosse una sigaretta fatta a mano, invece io so che dentro c'è questa cosa qua. Hanno già un'età avanzata, sono sui 50, e volevo sapere a livello di sua fazione dove potrà portare questo consumo smodato di cannabis, è una persona che purtroppo non ne fa più a meno, non riesce più a farne a meno. No, devo dire che Giuseppe, vabbè, tu ci dai questa testimonianza, qui molti dicono non ho mai sentito così tante stupidate sulla cannabis, è sempre la cannabis, a parte che abbiamo parlato pochissimo di cannabis, sono più le nuove droghe. No, ma poi la cannabis veramente è l'unica delle cose che stava già lì, se ne discute, lo sappiamo, qui la notizia semmai sono tutte le sostanze sintetiche che sono entrate nel mercato. Sulla cannabis il dibattito si divide da tanto tempo, moltissimi sono favorevoli alla legalizzazione, ma sono tematiche separate, insomma. Questo più che altro mi inquieta nella testimonianza di Giuseppe il fatto che questi autotrasportatori con 20 spinelli nel pacchetto di sigarette guidano tutto Giuseppe, il giorno. È così, no? È così, Giuseppe, guidano. Non di dire autotrasportatori, io volevo dire solo amici, purtroppo vabbè, è passata questa. E io comunque come autotrasportatore di lunga data, già nel 1990 dei dibattiti sindacali avevo già sollevato il problema, che tutti mi ridevano in faccia dicendo è impossibile. Già nel 90 purtroppo c'erano dei colleghi che usavano queste sostanze, già nel 90. Purtroppo nel nostro ambiente fino a poco tempo fa, che ora con la scheda tachigrafica siamo super controllati, si doveva andare a rotta di collo e tanti facevano uso di sostanze per poter arrivare a destinazione. Beh, insomma, però ora questo sistema, diciamo, un po' calato, perché poi ci sono controlli sporadici, improvvisi, dove ti mandano a fare le visite, e quindi è un po' così discorso. Il mio discorso era di vedere questo mio amico, collega, che purtroppo viaggia, si fa i suoi spinelli a casa e poi viaggia con questo pacchetto. No, ma è chiaro, Giuseppe, è una testimonianza vissuta dal campo. No, noi abbiamo visto, non sapevamo di non dover dire la tipologia di lavoro, ma chiaramente quando abbiamo visto sulla schermata, perché spieghiamolo, lo scrivono in redazione, quando la persona si qualifica faccio questo, e quindi giustamente Veronica purtroppo ha detto autotrasportatore, ma comunque era tra Giuseppe le informazioni. Sì, ma poi insomma non abbiamo fatto nomi di nessuno. No, ma è chiaro. Più che altro io credo che l'effetto delle cannabis poi non sia nemmeno un effetto che aiuta la performance, quindi per esempio rispetto al guidare 18 ore, quello che dicevamo prima con il professore tossicologo, non è neanche una droga che spinge, quindi teoricamente anzi è una droga che dovrebbe rallentare, rilassare. Dunque mi chiedo davvero quanto sia difficile guidare successivamente per ore e ore. E poi è veramente una cosa da non fare. C'è Patrizia da Latina, buongiorno. Buongiorno. Io volevo intervenire soltanto perché quando mi capita molto di seguire questi discorsi, perché io ho tre figli ormai adulti, ma che fanno occasionalmente insomma qualche canna, come si dice. Certo, ho sempre spinto molto perché non ne facessero uso, ma anche perché non fumassero tabacco. E mi sembra sempre che quando si parla di questo tipo di droghe non si inserisce mai il tabacco, che invece è ormai fuori discussione, scientificamente dimostrato che causa cancro ai polmoni. Io ho avuto mio padre che è morto per un cancro alla ventricola. Ma sì, ma certo, ma guardi, molti ci scrivono anche dell'alcol, è un tema da ampliare, Patrizia, giustamente. No, lei ha ragione, è che sono diverse magari appunto gli organi che ne fanno particolarmente le spese, perché per il tabacco parliamo dei polmoni e poi va il sistema cardiocircolatorio. Qui parliamo in particolare di danni cerebrali con queste nuove sostanze, quindi sono diverse branche. No, ecco. Poi che si continua a dire adesso 2 ore che accusate la cannabis, ma non abbiamo, adesso a furia però di dircelo poi la nominiamo, sembra che parliamo della cannabis. In realtà stiamo parlando, abbiamo parlato del commercio nel deep web, soprattutto delle droghe e soprattutto adesso droghe per sintetiche, sedare però. Gli animi, tu accendi bello lì in diretta un bel cannone, no, alla Bob Marley. Smettila, che così per par condicio, ci vuole la par condicio anche su questo. Visto che sembra che ne abbiamo parlato male, tu no, per compensare puoi far così. Va bene, comunque alle 9:40 minuti è arrivato anche il funambolo Leonardo Manera. Eccolo qua. Ah, sono arrivato adesso, buongiorno, no, non lo sapevo. Saluto tutti. Sei arrivato lì da un po', ma questo è. Tu vuoi darci qualche tua dritta? Leo, su? Ci avrai qualche notizia tu su qualche cosa che ti è successa con qualche droga sintetica che è entrata a casa tua dalla finestra, robe così, no? Purtroppo no, io non ho mai fatto uso di droghe, ma neanche le canne, perché non sapendo fumare non mi è mai capitato. Mi è capitato di vedere persone che ne usano e gli effetti, ecco, vi posso dire, ho questo episodio, sono stato anni fa con una ragazza che si faceva canne in continuazione, alla fine non sono riuscito a rimanere con lei perché alla fine un effetto ce l'hanno, ecco, io non riuscivo, c'erano tanti momenti della giornata in cui lei non era lucida. Questa cosa. Ma infatti ci dicono anche il paragone tabacco, è chiaro che il tabacco fa male, non ha questo effetto psicotropo, ecco, non ha l'effetto sulla psiche, è più una dipendenza fisica. No, anche l'alcol, certo, è chiaro male, che sappiamo però, gli effetti nefasti che ha. Però dell'alcol se ne dibatte, lo sappiamo, li conosciamo. Il problema di queste sostanze è che non si sa che cosa siano. Da qui nasce l'incognita anche molto ansiogena. C'è Sandro da Brescia. Come avete capito, tra l'altro, appena ho annunciato la presenza del sindaco di Parma Pizzarotti, ma al momento non risponde al cellulare. Ah, è per questo che mi hai chiamato in causa. Ha risposto? Stavi facendo il disinvolto, l'hai detto. Dai, che si erano già dimenticati che sindaco, dovevi parlare di Parma. Sindaco, buongiorno, sindaco Pizzarotti. Buongiorno. Sindaco, scusate, di Parma. Ho appoggiato il telefono e quindi mi eravate sfuggiti. Allora. È stupenda questa cosa, cioè era silenzioso e quindi la chiamavamo. Esatto. Succede anche ai sindaci. Allora, sindaco, ci deve spiegare come mai, per carità, lei l'ha già detto, la spiegazione tecnica, ma leggere che una dipendente del comune si è portata via un cospicuo bottino al Teatro Regio, 432.000 euro, e poi ha una casa popolare, molti sobbalzano sulla sedia. Com'è possibile, sindaco? Ma allora, da una parte, come avete detto, chi giudica, cioè i servizi sociali non guardano la vita delle persone che chiedono se hanno i requisiti, un alloggio popolare o un sostegno, perché la persona nello specifico, senza voler entrare nel dettaglio, queste condizioni ce le ha di disagio e insomma, senza giustificare il comportamento, quello che era successo era stato per tutta una serie di vicissitudini familiari, quindi quei soldi erano stati spesi in passato per la madre, tutta una serie di cose. Quindi capendo come dire, questa situazione paradossale, però i servizi sociali, noi abbiamo tante cooperative sociali in cui ci sono ex detenuti, persone che escono da percorsi difficili magari di droga o di alcolismo, cioè se si entrasse nel merito del se qualcuno ha fatto una vita, chiamiamola così, degna e retta per poter accedere ai servizi, forse ai servizi non avrebbe cioè diciamo nessuno, la fedina però. Penale non è un elemento, non incide nella graduatoria, se no persone indigenti vorrebbe dire che vengono lasciate in mezzo alla strada di fatto, perché è evidente che chi ha fatto un percorso, come dire, legato a problematiche di una penale o di altro, è evidente che sono le persone che in tanti casi hanno più bisogno di sostegno. Certo, qui la notizia è che la fedina penale una cosa che mi ha stupito di questa faccenda, di questa tensione, che è una cosa, tra l'altro vorrei far notare e sottolineare che noi avevamo trovato questi ammanchi che erano molto strani, noi avevamo fatto denuncia, cioè noi abbiamo fatto scoppiare questo caso e abbiamo, come dire, chiuso questa prassi di distogliere dei fondi nel 2013, e questo non aveva fatto lo stesso scalpore di questa cosa, quindi questo è paradossale. E secondo, che mi dispiace molto, l'attenzione che sta dedicando in questi giorni, direi anche abbastanza vorrei dire eccessiva dal punto di vista dell'impegno, perché forse c'è una crociata personale del nostro giornale cittadino su questa tematica, rispetto al fatto che da noi sta chiudendo una fabbrica, lasciando a casa 120 persone, e questa tematica non fa altrettanto secondo me l'informazione sta seguendo questa è una polemica che lei con la Gazzetta di Parma ma in generale anche alle televisioni nazionali che si sono come dire affezionate al tema di cui stiamo dibattendo e molto meno a temi importanti per la nostra società, la politica che insegue il populismo. Fatemi dire che anche i giornali cercano di toccare la pancia piuttosto che parlare siamo di assolutamente d'accordo. Quindi. Io volevo farle una domanda però, sindaco, partendo dal presupposto che chiaramente qui è una questione di norme, per cui è previsto che sia così, ma secondo lei c'è anche una mancanza di regia politica in qualche modo? Cioè lei si sarebbe potuto essere un po' più discrezionali nell'applicazione della legge e ritenere che in questo caso si potesse fare un'eccezione, oppure era proprio da un punto di vista normativo impossibile? Ma assolutamente no, ma lo riterei sbagliato che ci fosse. Ecco, no, questo mi interessava anche sapere poi, certo. Se cominciassi a dire chi sono i miei simpatici a me, chi sono antipatici a me, come voglio dire in alcuni casi spesso fanno, non so, io penso a partiti politici magari più di non dico estrema destra, ma dalla destra in su, come può essere la Lega o altri, quando in modo molto populista dicono noi le case le diamo, no, la frase standard è prima gli italiani o cose di questo tipo, non tenendo conto che tante persone pur straniere che hanno già la cittadinanza italiana sono altrettanti italiani. Quindi se la politica entra nel merito della discrezionalità personale per un ceto sociale, per un luogo di provenienza, per come dire casistiche rispetto alla vita del singolo cittadino, io penso che stia andando fuori dai suoi binari, perché questo non ci deve poter essere, ancorché, anzi, deviazioni della politica del passato erano riesco a pilotare, a dare o non dare, è più facile dare che non dare la casa a chi magari è simpatizzante. Quindi noi non rientriamo, non veniamo convocati, non abbiamo, come dire, nessuna implicazione nelle graduatorie, nelle decisioni, e così deve essere. Sindaco, nel ringraziarla e salutarla, se ha 10 secondi che abbiamo già molto sforato, lei che non è più nel 5 Stelle condivide le battaglie che stanno facendo sulla legge elettorale? No, condivido il fatto che la legge elettorale è fatta così sia un atto estremo, condivido anche il fatto però che una legge elettorale serviva e serve, perché è paradossale pensare ad andare a votare senza una legge elettorale chiara. Certo. Ma sull'aver messo la fiducia è favorevole o contrario? Ma sono contrario per principio, ma il concetto è, però, se non si sbloccano le cose, il problema è questo: un Parlamento che non ha delle maggioranze chiare, devi ricattarle, diciamo così, tra virgolette, con la fiducia, se no le cose non vengono votate. Questa è la considerazione da fare. Intanto noi la ringraziamo, Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, che ha chiarito questa vicenda di Casa Popolare al traffico. I funamboli. Siamo qui, Leonardo Manera, eccoci! Cari miei funamboli, allora voi prima parlavate di dipendenza da droghe di vario tipo e due giorni fa sul Giorno c'era un'intervista interessante a una psicoterapeuta che si chiama Laura Dalla Ragione e il titolo era Magri e grassi, il culto del corpo manda in crisi i giovani, cioè la dipendenza da cibo anche da assenza di cibo, che è un problema serio, no? Si parla dell'abbondanza di cibo, almeno qui da noi in Occidente, ma poi invece i modelli di magrezza dall'altra parte, come se ci fosse una specie di schizofrenia, insomma, cibo tutto il giorno in televisione e poi modelli solo di magrezza. Dalla mattina alla sera in televisione sono programmi di cucina con piatti anche calorici, la gricia, cacio e pepe, arrosto di maiale ripieno di lardo fritto, pastellato e ripassato nel burro. Dall'altro però nelle pubblicità vedi solo modelle taglie 40, anzi adesso anche 38, 36, che quando poi vengono intervistate queste modelle dicono io mangio tantissimo, no guarda mangio quello che voglio eppure non ingrasso. Ecco, io quando vedo le modelle che dico questa cosa mi viene l'orticaria, perché non è vero, fingono di mangiare, magari per la foto del servizio fotografico gli mettono davanti un piatto di pasta, un hamburger o anche un maiale intero con in bocca un limone, ma non è vero che li mangiano. Il maiale vivo, se vede passare accanto una modella taglia 36, è tranquillo, non si agita perché sa che non corre pericolo. Spesso le modelle fanno le foto fingendo di mangiare con l'hamburger davanti, poi finito il servizio fotografico l'hamburger lo buttano. Alcuni arrivano, leggevo un'intervista su Gioia, per non ingrassare e mangiare solo la carta, ma per avere la sensazione di mangiare qualcosa. Ma quelle modelle, lo dico anche alle ragazze che volessero fare, non fanno una bella vita. Per 10 modelle super pagate al mondo ce ne sono migliaia che fanno una vita da schifo. Perciò da parte c'è la spinta a mangiare sempre, tutti i giorni. Dall'altra essere magri, snelli, in forma, performanti. Tu li vedi in giro anche per strada, quelli che sono snelli, belli, magri, in forma, performanti. Poi gli chiedi come stai? E io dico sto bene! Non sono snelli, magri, in forma, performanti, sono drogati appunto. È un bel casino vivere, soprattutto quando sei adolescente, crescono i peli, spuntano i brufoli, crolla le certezze dell'infanzia e poi ci sono sti ormoni grossi che vengono fuori come bombe a mano. Quando sei adolescente non sei più una persona, sei un ormone gigante, prepotente, invadente. Se io potessi sto ormone lo prenderei a schiaffi, tanto è invadente, ormone maledetto. Ma l'adolescenza in quel periodo è un ormone con degli occhi, un naso e una bocca, e in quella bocca bisogna decidere cosa far entrare, possibilmente senza diventare bulimici o anoressici. Nessuno in fondo ha la bacchetta magica per aiutare gli adolescenti a superare quegli anni, però una cosa è sicura secondo me: se si riescono a superare quegli anni in modo decente, almeno decente, poi le cose col tempo miglioreranno, ci si assesta un pochino e anche gli ormoni maledetti si calmeranno e faranno un compromesso con qualcosa che forse non è la felicità che tanto cerchiamo quando siamo adolescenti, ma è qualcosa che assomiglia alla felicità, che è la vita. Oh. Meglio di qualsiasi corso di educazione alimentare il nostro Leonardo Manera, eh? Io un po' mi pongo il problema, perché avendo un figlio che tra qualche anno sarà adolescente, per i maschi c'è un po' meno questo problema legato al cibo, però... Ma guarda che in realtà sì, è una cosa... No, esiste anche per i maschi, mi interrogo anch'io. Meno, è vero, però... Leo, sei ottimista perché dici che con gli anni la situazione un po' si stabilizza piano. Quindi per una volta abbiamo un risvolto ottimista. Ma è vero, la cosa difficile è superare quel periodo che va dai 12 ai 18 anni, secondo me. Poi un po' le cose... Quel maledetto periodo chiamato adolescenza. Signore e signori, l'ottimista Leonardo Manera. Una volta tanto ottimista. Quando meno te lo aspetti, no? Quando ormai l'hai bollato per il pessimista, proprio per antonomasia, eccolo che lui ti dice: ma con gli anni andrà tutto meglio. Ma io ragazzi, devo anche dire che il periodo, l'anno più fortunato, più bello, che ricordo nel modo così più sereno della mia vita, è stato quello fra i 14 e i 15 anni, perché mi avevano comprato il motorino i miei genitori, io avevo messo la sella lunga sul motorino, portavo una ragazza che mi piaceva tantissimo dietro, non c'erano ancora i caschi, mi sentivo liberissimo, e quello è un anno che a distanza di tanto tempo ricordo ancora. Comunque, con felicità. Leonardo, sei unico, mi fai sganasciare ogni mattina, bravo, lavoro e rido da sola. C'è Cristina da Firenze come una grulla. nulla che aggiunge. Milan mi manchi alle 6.30. Allora, ti prego, basta. È come la VAR questa, è come il Despacito. Secondo me, se tu ti svegli comunque a quell'ora e dai dei segnali, twitti, la gente sì. è più tranquilla. No, infatti ho deciso, adesso devo fare un annuncio. Tornerò alle 6.30 del mattino. Tornerò alle 6.30 del mattino. Oh. Ma c'è da una piccola solo. Condizione. Vi dovete svegliare tutti alle 5 e presentarvi tutti alle 5.30 qui in radio, a tutti gli ascoltatori. A queste condizioni è mi stato sembra stabilito. Un buon accordo. Io a quel punto penso di farmi da parte. Va bene, c'è Sandro da Brescia. Sandro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Milan. Eccoci. Eccoci, volevo intervenire sulla questione delle droghe, mm-hmm. Dove soprattutto quando si è tirata di mezzo la liberalizzazione contrapposta alla proibizione. Sono entrambe, hanno dei punti positivi e negativi, però mai si parla di prevenzione. Voi stamattina meritoriamente l'avete fatta, però bisognerebbe creare una cultura e una comprensione. Sì, della prevenzione, far conoscere le droghe ai ragazzi, nel senso... Ma qua è il lavoro anche nelle famiglie, eh? Cioè nelle famiglie, se vuole la scuola, no? La prevenzione, Alessandro vuole puntare molto sulla prevenzione. Anche il nostro tossicologo chiudeva ieri, per esempio, il reportage in questo modo, dicendo se ci fosse maggiore consapevolezza e prevenzione, già staremmo una spanna avanti. Infatti dopodiché... uno ne parla, non per dire non lo fate, perché è proibizionismo, no. Uno ne parla perché ci sia consapevolezza sull'argomento, poi viva la libertà. La guerra. Viva la libertà. Dai, la seconda parte di Funamboli dopo il giornale radio. State con noi. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. I Funamboli. With every waking breath I breathe, I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me. Allora, la seconda ora dei Funamboli alle 10:07, 800 24 00 24. C'è Leonardo, cara Veronica, che deve fare una cosa radio. Ma un grande saluto a Marina di Firenze che ci segue Funamboli. Oggi compie gli anni, quindi anche da parte nostra tanti auguri, una dedica, come si usava una volta. Ciao, esatto. Marina, esatto. Ma facci capire, Marina è un'altra situazione tua operativa, no, di inciucio? In Toscana c'è Michele da Firenze, Marina da Firenze, poi c'era... Ah, quindi la teoria definitiva è che Manera acchiappa in Toscana? Claudia da Firenze. Ma la mia prima ragazza con la quale ho convissuto per 7 anni era di Prato, quindi anche lei è una ragazza toscana alla quale sono ancora molto affezionato. L'ultima volta peraltro. Che ti ho parlato, la tua ultima ragazza era di Spinaceto a Roma. Sì, no, la mia prima convivenza fu con una ragazza toscana. Scusa Veronica, facevamo dei calcoli prima. Praticamente ha avuto varie convivenze, almeno una quindicina per 7 anni. No. Quindi ha convissuto contemporaneamente con quindi Manera e Matusalemme, in realtà ne non ha sedato. Non è vero, no. Anzi, sono un ragazzo, mi definisco ancora ragazzo, fortunato. Molto, molto fedele. Allora, sei bravo, no, tu sei molto, molto bravo. C'è Andrea che ci chiama da Milano. Fedele a chi? Fedele. Non si sa, questa è la vera domanda. Andrea, buongiorno Andrea. Sì, pronto. Dica, buongiorno, dica. Buongiorno ragazzi, complimenti alla squadra. E volevo portare la mia grazie, anche tu sei milanista. Grazie, vai Andrea. Ma che spirito sono stamane. No, due cose, mi chiedo, come fanno questi giovani ad avere accesso a droghe sintetiche nell'internet scuro? Servono carte di credito per pagare, servono sistemi... più o meno sicuri. A 18 anni magari uno la carta di credito ce l'ha. Sì, poi però servono anche i soldi, perché per piccole quantità non penso proprio che si muova quel 20 mondo. Euro, però no, lo diceva euro. Che i prezzi sono molto più bassi, cioè essendo proprio droghe sintetiche, sì. Sono prodotte, di cui molte prodotte in Oriente, tra l'altro, Cina, Vietnam, hanno dei prezzi molto bassi, questo è un altro degli aspetti inquietanti. Tra l'altro credo che in generale i costi dei vari tipi di droghe si siano abbassati molto. Sì, beh, io non parlo da Santarellino, io sono un consumatore di cannabis, ho fatto varie esperienze nella mia vita. Quello che penso è che le droghe sintetiche comunque fanno male, Sì, vabbè. Molto più di quelle leggere, perché veniamo, fra virgolette, usate un po' come cavie, nel senso che buttano queste molecole in commercio per vedere cosa accade. No, è chiaro, Andrea, questo è una sorta di studio. Sì. Su questo. Va bene, sì. Andrea, questa è la sua idea, e anche sul tema smart drugs, che vengono chiamate così, si può discutere. Oltretutto, si ironizzava sul fatto che si chiamino smart, perché di smart non c'è proprio nulla, esatto. Qui l'effetto sembra il contrario. Però è il momento del furambolo del giorno, che è... Nome: Leonardo. Cognome: Napoli. Età: 26 anni. Ingegnere di Torino, Leonardo ha creato Laura, l'app per pedoni non vedenti o distratti che avvisa quando il semaforo è verde. E tra l'altro, su questo c'è poco da scherzare. Leggevo che in America 3.000 pedoni sono morti per distrazione. In un anno, una roba che ho detto, praticamente una decimazione per disattenzione da cellulare. Sì. Da cellulare, certo. Certo. Leonardo Napoli, buongiorno, eccoci qui. Buongiorno a voi. Allora, tra l'altro, questa app vale ovviamente per i non vedenti, ma anche per i distratti, quelli che temporaneamente non vedono perché sono, come dire, concentrati ad altro. Esattamente, l'app l'abbiamo creata per aiutare i non vedenti e gli ipovedenti durante gli attraversamenti pedonali, ma soprattutto anche per aiutare coloro che passano sulla strada guardando WhatsApp oppure guardando Facebook, magari si è impegnati a mettere un mi piace di troppo e si finisce in mezzo all'incrocio. Sì. Sotto la macchina. Come funziona? Come funziona quest'app? È sonoro? Allora, un avvertimento sonoro, immagino. Allora, il sistema è creato da due parti. Una parte è l'hardware che viene messa sul semaforo, mentre l'altra è l'app che segnala attraverso vibrazioni o sistemi sonori o anche sul display proprio per i vedenti la presenza del semaforo, la posizione in città, la posizione rispetto al semaforo e lo stato del sistema semaforico. Laura, quindi è attiva a prescindere, Laura, cioè è già accesa e mentre uno fa altre cose, suppongo, col telefono, perché altrimenti la distrazione non ci sarebbe, lei va in automatico. Esattamente, si attiva quando sento un segnale di un semaforo attrezzato con Laura. Mi incuriosisce Laura, perché Laura? Laura, allora, l'idea era di darle un nome di persona, di aiutante, quindi riprendendo un po' Apple Siri. Okay. La scelta di Laura è dovuta al fatto per la figlia del finanziatore che purtroppo è mancata un anno fa. E allora abbiamo... È stata intitolata in qualche modo a lei. Però è interessante, ovviamente i semafori vanno dotati di questo piccolo hardware, cioè i comuni dovrebbero, come dire, dotarsi di... Contribuire. Esatto, guardate, i comuni sono obbligati per legge a fornire un sistema per gli ipovedenti e non vedenti. Ma chi lo fa? Quindi ogni volta... Io ne vedo di semafori, ma sono molto molto pochi di semafori. Esatto, allora la cosa è che i comuni... Ogni volta che sostituiranno un semaforo dal 2015 in poi, dovranno dotarlo di un sistema per ipovedenti e non vedenti. La cosa, mi permetto di dire, un po' scandalosa è che questi sistemi al momento costano tantissimo, si parla di 3.000 euro per un incrocio. Accidenti. Che non è il costo effettivo, insomma, probabilmente, no? C'è un ricarico, probabilmente sì, c'è un grosso ricarico. C'è un ricarico assurdo e noi abbiamo deciso come, diciamo, business plan di non... avere il nostro business sull'hardware, quindi l'hardware lo facciamo a bassissimo prezzo, cioè quello che va messo sul semaforo, l'hardware è esattamente quello che va messo sul semaforo, e rendiamo l'app disponibile gratuitamente a tutti gli utenti. Ma la vostra idea nasce in realtà a prescindere dagli ipovedenti, nel senso che c'è stato una particolare richiesta, un particolare incentivo a muoversi a causa di questo fattore distrazione da smartphone, oppure no, era una necessità? In realtà no, l'idea è nata da una richiesta di mio zio, che è ipovedente, quindi c'era questa necessità in famiglia, e in più ho unito, diciamo, l'esperienza di mio padre sui semafori, in quanto mio padre aveva studiato dei sistemi semaforici negli anni 90 più o meno per eliminare le centraline semaforiche. Unendo queste due cose è nata la necessità di dotare le lanterne di un sistema a basso costo che permettesse l'uso del telefonino per comunicare con le infrastrutture stradali. È bellissimo l'idea che da un'esperienza personale, familiare, possa nascere un qualcosa che poi può essere utile per tutti. È proprio il succo, mi sembra, è il succo di questa cosa. Cioè applico un qualcosa per un parente, due parenti, ma la metto poi al servizio di tutti, di tutta la comunità. E lei è un grande utilizzatore di telefonino per strada e anche in macchina, oppure in macchina fa il bravo, lei. Ecco. No, in macchina diciamo che cerco di non utilizzarlo. Ma come cerco? Come tutti. Dopo Leonardo ci può richiamare per la rubrica Defurbizziamoci. Richiama e ci dice: io uso il telefono in macchina ma sto smettendo. Mi raccomando, qui faccio un po' il moralistone. Mi raccomando, non si usa mai il telefono. Lo so, non è facile a dirsi, ma non c'era non uno spot mai. Che ha circolato in rete, non so se avete avuto modo di vederlo, molto divertente, in cui faceva vedere appunto tutti i pedoni che si sono schiantati per terra senza cose eccessivamente drammatiche, però utilizzando il telefono, e chiudeva dicendo: se siete così a piedi, figuratevi cosa siete in macchina, non usate il cellulare. Era molto divertente. Ci faccia capire, Leonardo Napoli, questa è tutto già pronto? Cioè un comune che la volesse contattare, qualcuno, o qualche zona dove è già operativo, oppure è tutto ancora in fieri il suo progetto? Allora, l'app è in fase di test, abbiamo quasi tutto pronto, ci manca soltanto una parte di hardware da sviluppare, diciamo, da ingegnerizzare del tutto. Sì. Comunque il sistema è già pronto e stiamo facendo dei test con la collaborazione di IREN, che sarebbe il gestore dei semafori qui a Torino davanti a Porta Nuova. Costa tanto? No, ecco, lei riesce ad abbattere, cioè tutto questo servizio, quanto un comune che volesse contattarla, quanto gli viene a costare? E dipende da quanti semafori vuole attrezzare. Questo ovviamente. Sì, diciamo, contando a semaforo? Contando i 3.000 euro rispetto ai cicalini attualmente, noi non abbiamo ancora definito un prezzo, comunque saremo meno di un decimo. Quindi possiamo dire meno di 300. Invece che 3.000, con 300 euro voi fornite un'app che fa attraversare i non vedenti o i distratti. Ma quindi l'idea, Leonardo, è che le persone la chiedano singolarmente, cioè che uno chiami e dica: voglio mettere quest'app sul telefono? No, l'app sarà disponibile su App Store e verrà inviato un segnale quando si avvicina ai semafori della possibilità di scaricare l'app. No, è bene che i comuni, insomma, io spero che i comuni, gli amministratori comunali, si informino e sappiano che si può, con invece che 3.300 euro, mettere a norma peraltro i semafori. Sì, tra l'altro c'è anche il problema delle auto elettriche che fanno poco rumore, quindi a volte non si sentono neanche arrivare. No? Sì, esatto, infatti il nostro futuro, diciamo il piano per il futuro, ovviamente l'abbiamo già fatto perché abbiamo bisogno di sapere come andremo in futuro, è quello di digitalizzare i segnali semaforici dei veicoli, quindi dei semafori veicolari, e renderli disponibili in primis per ribaltarli sui sistemi di infotainment, quindi sui navigatori che avete in macchina, vi troverete il semaforo e vi dirà: attenzione, sì, mancano tot secondi. Okay. E poi invece in futuro, l'idea un po' utopistica, però speriamo di arrivarci, più che altro dobbiamo aspettare che arrivino veramente le macchine a guida autonoma, certo, diffuse su tutto il territorio, lasciare che siano le infrastrutture stradali a guidare i veicoli. Beh, quindi insomma, Leonardo Napoli, davvero un funambolo creativo, e la ringraziamo molto perché ci ha raccontato uno spaccato anche del mondo che verrà. E poi molta attenzione, ecco, questo sì, fai la moralista tu, cara Veronica, fate molta attenzione, ma tu sai che ci sono paesi, non mi ricordo se in Giappone, dove hanno fatto delle colonne apposta, tipo le piste ciclabili per i pedoni che camminano con lo smartphone in mano, perché io non sono proprio un esempio virtuosissimo, quindi tu non cammini mai col cellulare in mano? Ma sì, certo, ovvio che cammino col cellulare in mano, certo, però quando si arriva a un incrocio, si attraversa una strada, accidenti, ecco, non mi è mai capitato di trovarmi a mezzo incrocio e dire: oh, potevo essere stirato. No, però diciamo che la disattenzione è tanta, sì, perché se uno si deconcentra e viene assorbito, e siccome si è tanto assorbiti da questi telefoni, sì, ieri per esempio ho bucato la fermata della metropolitana, mi sono risvegliato due fermate oltre. Quella però è una situazione di un altro tipo. No, in cui per il telefono. Risvegliato nel senso che ieri, sì, c'avevi sonno, ce l'avevi anche l'ho detto. Turro, fermata turro. Ho detto: ma come turro? Io ho passato già, vabbè, dai. Chissà che c'era scritto su quel telefono. Dovevo andare al traffico, dai. I funamboli. Allora, alle 10:20 minuti, cari amici funamboli, cara Veronica, caro Leonardo, ora c'è un ospite che a me incuriosisce moltissimo perché è facciamo un po' di chilometri adesso. Sì. È un'imprenditrice, amministratore delegata, amministratrice delegata, non lo so se dobbiamo declinarlo al femminile, della Segesam. Di questi giorni è meglio di no. No, la Segesam, che è una società molto particolare perché è una, credo, delle pochissime società che esporta, fa export con la Corea del Nord. Da Kim Jong-un, esatto. Laura Galassi, buongiorno, amministratrice della società, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Capisce che è un mondo talmente ermetico per molti che intanto che cosa esportate in Corea del Nord? Missili. Sicuramente no, assolutamente no. È il nostro Leonardo Manera. Anche perché non ce ne sarebbe bisogno, no? Fanno da soli. Sì, non siamo noi, assolutamente. No, noi esportiamo da allevamenti, attrezzature per allevamenti per animali oppure beni di consumo. In particolare abbiamo aperto una pizzeria in joint venture una decina di anni fa. Questo mi ha incuriosito molto, una pizzeria italiana. Sì. Ma come nasce l'idea di andare in Corea del Nord? Ho partecipato con mio padre a una missione nel 2000, una missione commerciale, e ho avuto l'opportunità, la prima opportunità di visitare il paese, mi ha molto interessato e da lì ho fatto altri viaggi con anche altri imprenditori e abbiamo iniziato questo rapporto. Quindi soprattutto beni di prima necessità. Certo, capisci che per il mondo è un luogo molto chiuso, molto, molto davvero ermetico, no? Sì, come altri paesi. Un po' di più forse, un po' di più degli altri. Non è facile, credo, esportare in Corea del Nord, oppure sì. Basta rispettare le regole di esportazione e le regole di importazione. Quindi. Ma lì le regole sono molto fiscali, come funziona? Allora, le regole per l'esportazione sono date da un embargo internazionale che risale agli anni 2000, forse quello che ci riguarda più di tutti, il primo è stato quello del 2007 rispetto all'embargo sui beni di lusso, quindi essere certi di non esportare prodotti che sono vietati, anche perché i controlli vengono fatti già da noi, quindi non è all'entrata ma è all'uscita il controllo. Okay. Qual è la motivazione, mi scusi, per la quale i beni di lusso non possono essere esportati in Corea? Perché ai tempi chi ha messo questo embargo, che poi è l'ONU, riteneva che, e ritiene tuttora, che fossero dei beni che servissero per la nomenclatura. I dirigenti del paese. Sì. Ecco, okay. Infatti se uno va a vedere la lista degli articoli di lusso, si parte. Il primo sono i cavalli di razza pura. Rileggerlo adesso fa anche un po' sorridere. Sì. Non deve essere stato proprio una delle cose più richieste. Esatto. No, immagino, però anche... però anche super alcolici, prodotti di bellezza, vini di alta qualità, sigari di qualità, tartufi e anche, che è interessante, articoli e attrezzature per alcuni sport tipo per lo sci, il golf, sport acquatici e sport subacquei. Però insomma lei invece dice che si esporta, soprattutto esportate materie prime ma anche cibo, no? So che sì, per esempio carne di pollo, carne. Allora no, carne non esportiamo, no. Noi abbiamo esportato le attrezzature che servono per gli allevamenti, ecco. Ma poi li allevano loro gli animali e quindi ottengono la carne. Ecco, ma invece l'esperienza della pizzeria? Perché allora, l'esperienza della pizzeria è un'esperienza che è nata da una richiesta del paese di avere, loro avevano chiesto un ristorante, a noi è sembrato che partire con una pizzeria fosse più semplice soprattutto per ciò che riguarda il reperimento delle materie prime. Chiaro. Tra l'altro c'è una storia, forse pochi la sanno, ma anni fa un pizzaiolo italiano, credo si chiami Furlanis, fu chiamato personalmente in Corea del Nord per fare la pizza e insegnare come si fa la pizza quando c'era tra l'altro il padre di Kim Jong-un al potere. E non lo so se questo c'entra con la nascita della pizza. La pizza comunque è uno dei nostri fiori all'occhiello come italiani, sì. E piace molto, piace. Ma anche in Corea dico va molto forte la pizza, quindi evidentemente sì va molto forte. Grazie, la pizza. Noi esportiamo nella pizzeria, tutte le materie prime vengono dall'Italia, compreso anche il sale. Tutto. Ecco, però Galassi, qui c'è la questione, non la vogliamo far entrare in considerazioni politiche perché non è il suo ruolo, però lei capisce che tutto il mondo adesso guarda la Corea del Nord, alle preoccupazioni, a quello che sta succedendo, e anche, voglio dire, per come è stato descritto da molti fuoriusciti, è considerato un regime da alcuni brutale, che manda le persone nei campi di lavoro. Voi fate affari, questo fate, però vi sarete posti queste domande su ma sono a parte che non sono due mondi completamente diversi. Chi si occupa di business non si occupa di diritti umani, ci sono delle realtà che si occupano di diritti umani. Nei miei viaggi là ho avuto modo di incontrare delegazioni di vari paesi, anche americane, che si occupavano di quello, ma c'è chi se ne occupa, dice. Però nella sua esperienza, con i suoi referenti, come si è trovata con i suoi referenti appunto per le vendite, gli acquisti? Io con i miei referenti, che sento, vorrei dire, quasi tutti i giorni, parliamo di lavoro, parliamo anche delle famiglie, di quelle che sono le realtà, però non... Sì, non è entrato in considerazione. Se dovesse fare una considerazione sulla qualità della vita in Corea del Nord, che lei ha registrato così, meramente da osservatrice? Negli anni, perché ormai sono quasi 20 anni dal primo viaggio che ho fatto nel paese, la qualità della vita è molto migliorata e continua a migliorare nel paese. I primi anni era tutto, io dico, molto grigio, adesso finalmente è colorato, quindi sicuramente, ma il fatto stesso di aver aiutato con l'esportazione delle attrezzature qualità, certo, ha migliorato la qualità. Qual è il vita? Bene che è più richiesto o sarà più richiesto nell'immediato futuro in Corea del Nord? Quello per cui ci sarà più business anche per lei? Sono vari, sicuramente sarà tutto ciò che porterà un po' a migliorare dal punto di vista del, ad esempio, i libri, la televisione, anche il cibo, poter l'apertura a quello che adesso è ancora un po' precluso, ma per quella che è la chiusura e le poche comunicazioni del paese con l'esterno. Certo. No, ma giustamente anche un ascoltatore ci chiede, ma non è vietato esportare? No, evidentemente c'è l'embargo e tutto, ma ci saranno come in altri paesi è vietato, c'è una lista di prodotti che sono vietati, ad esempio a parte ma pensavo la Coca-Cola, per esempio, no? Che leggevo che gli Stati Uniti non possono esportarla. Imperialista, dai. Allora, la Coca-Cola, c'è stata una storia di qualche anno fa, era uscita anche sui giornali, la prima Coca-Cola arriva in Corea del Nord, che poi ero stata io che avevo in un container con l'altro cibo, avevo inserito della Corea del Nord. Quindi si può portare? Ma non è vietato importare, cioè se non sei la Coca-Cola esatto, la Coca-Cola non è presente ufficialmente in Corea del Nord, punto. Ah, la Coca-Cola però, come azienda, come però lei può importare la Coca-Cola come bevanda, la può portare lei certo, non è che ci sia un divieto, che poi preferiscano non importare prodotti con connotati americani, questo è un altro discorso. Ed è andata a ruba la Coca-Cola, immediatamente tutti i coreani esatto, si sono fiondati. Piace. È una bevanda che sappiamo ha un certo ascendente. Esatto, ma tutte le bevande dolci, con delle componenti dolci, anche la nostra aranciata è andata fortissimo, piacciono molto. Quindi il mercato è forte anche lì. È forte anche lì. Senta, ma il gelato invece ce lo siamo risparmiato, perché il gelato è un altro classico che si esporta dall'Italia. Il gelato, noi abbiamo portato le macchine per fare il gelato e il gelato va forte. Certo. Insomma, capite che noi la ringraziamo moltissimo, Laura Galassi, perché ci ha aperto un mondo. Quando vorrà, noi siamo qui a capire, cercare di capire anche con i pochi, rari interlocutori che in Corea del Nord ci vanno, la frequentano. Poi ovviamente uno può avere una percezione limitata da quello che vede. Ieri vedevo Nemo in TV e c'è stato un bel reportage proprio dall'interno della Corea del Nord. Ed era interessante vedere, perché poi è uno di quei mondi ancora davvero inaccessibili. Come era una volta Cuba, forse, come qualche era anno Cuba, fa. Ma adesso ormai Cuba, certo, voglio dire, o fino a qualche anno fa, ma la Corea del Nord è proprio l'ultimo eremo mondiale, no? Anche perché lo conosciamo unicamente per quelle che sono le notizie, no, che ci arrivano di riporto di quello che accade. Esatto, a meno che non siano quelle epiche di natura bellica. Per cui mi ha sempre incuriosito, insomma, chi riesce a entrare o chi va in Corea del Nord. Grazie a Laura Galassi, amministratore delegato da Sejesam, società che esporta in Corea del Nord. Cari amici, andiamo a sentire cosa succede in borsa. Io vado a bermi una Coca-Cola. No, ma con tutti gli investimenti che ha fatto Veronica Gentili e anche Leonardo Manera, sentite un po' come vanno. Credo che siano cambiate le borse, cose in Corea. State bravociando, ci dice le borse qui, perché so che voi il vostro portafoglio è molto gonfio. Sentiamo. I funamboli. Facile dire la prevenzione tocca alle famiglie in ambito di droghe, quando per la società e per lo Stato è un tabù. Ma a questo punto, oltre la droga e la prostituzione, legalizziamo anche gli omicidi. Potrebbe saltar fuori una mini manovra anche da quello. Vabbè, c'è tutto, c'è tutto via WhatsApp. Mi sto anche... Senti, che è sto soffocando, è tutto a posto. È stata l'emozione. Leonardo non ha mosso un dito, io sto soffocando e gli amici si vedono in questi momenti. Avevo detto di non dargliela adesso il veleno. È una crisi passeggera, si vede, non è più guarito dai primi sintomi del raffreddore di 3 settimane fa. Questi funamboli lo stanno distruggendo, stava meglio quando si alzava alle 3. Signori, c'è alle 10:39 minuti, siamo qui nel momento in cui ogni tanto convochiamo o chi fa dei lavori strani, o chi fa il furbo e vuole essere defurbizzato, oppure chi vive... Come gli piace? All'estero. Lui ormai sceglie soltanto quelli all'estero per sentire la canzone. Ma no, non il è resto vero. Non è vero. E poi gli piace tanto questa cosa dell'estero. Forse sogna di trasferirsi, vuole andare via. No, ma secondo me si sente un po' international. Sente che il programma ha questa cifra più esterofila. Ma non siete, ma non conoscete la magia, la poesia della radio? Cioè, voi parlate nei vostri studioli belli, comodi, caldi, e in questo momento vi sta ascoltando Alessandro, che è... Alessandro, buongiorno, che è a... a... Buongiorno, sono a Chennai in India. A Chennai in India! Ma vi rendete conto? I funamboli arrivano anche lì. E voi questa cosa non vi smuove il cuoricino? Ogni tanto ti manda WhatsApp con le previsioni del tempo qua. Quanti gradi ci sono a Chennai? Interessantissimo questo. Quanti gradi ci sono? In questo momento 34 ed è nuvoloso, forse sta per piovere. 34? Ma è sempre così la temperatura? Sì. Di notte scende, a volte scende sotto i 30. Ah beh, però c'è, beh, allora, c'è anche molto umido, no? Non ti trovi bene, sì, c'è troppa umidità. Ecco, Manera inizia a mettere zizzania. Aria condizionata a pallettoni misti dalla mattina alla sera? Sì, ho la fortuna di vivere in albergo, quindi lavoro e vivo in albergo. Allora, Alessandro, ecco, lavoro e vivi in albergo, già qualcosa ci hai detto. Cioè, che lavoro fai? Sembri toscano dalla... Sì, sono toscano di Monte Catini Terme, anzi Marliana, vicino. E, sì, lavoro in India da quasi 5 anni. Io e te ci siamo già sentiti 3 anni fa quando facevi Ciao Italia. All'epoca ecco ero a Mumbai. Ah, da Mumbai a Chennai. Sì. E dove lavori? In albergo, sì, immagino. Sì, io sono chef in un ristorante italiano. Lo chef! Straordinario. Cosa cucini? Pietanze italiano? Cerchi di adeguarti o ti sei fossilizzato su quello che conoscevi già prima? Subito. Quando lavori, va bene, io cerco di fare il più razionale possibile, però quando lavori all'estero devi in qualche maniera, devi sempre un pochino adeguarti, trovare dei compromessi. Ma nel senso che hai dovuto indianizzare i piatti italiani? Ma più che altro aggiungere un pochino delle spezie. Un po' di curry. Fai la curry bonara. Bellissimo. No, più che non altro l'hai detta. Non l'ha detta la pasta, no, la curry bonara. Non l'ho sentita, vero? No, è stata un'interferenza. La curry bonara, bellissima. No, no, cioè, questa no, te la puoi rivendere, grazie, secondo grazie me. Grazie che tu l'apprezzi. Mi hai dato un'idea. Ero certa, stasera sul menù c'è la curry bonara. No, comunque... Alessandro, che bello, qual è il tuo legame con l'Italia? Cioè, a parte ascoltare Radio 24, eccetera, che cosa ti manca, se ti manca qualcosa dall'Italia? Oppure dacci uno sguardo lì da Chennai, India. Beh, cosa manca? Chiaramente mancano la famiglia, gli amici e tutti i legami. Insomma, io sono nato e cresciuto in Italia e... Però per succede nella vita che il lavoro ti porta lì. Dopo tanti anni in America e in altre parti del mondo sono arrivato qua. Ma quanto si profila lungo il tuo soggiorno in India? Ma senti, fra una decina di giorni, se tutto va bene, dovrei andare a lavorare in un'altra città sempre indiana, a Bangalore. Quindi insomma penso... Se tutto va bene, spero non più di 2-3 anni e poi tornare alla base. Come ti trovi con le persone, con gli indiani? Come sono dal punto di vista caratteriale? Ma quanti minuti ho? No, sai, noi siamo abbastanza... abbiamo detto che i cinesi sorridono, gli indiani che fanno? Meditano. Il tratto più distintivo. Ma gli indiani lavorano, però con la loro pace, insomma, diciamo con i loro tempi, però lavorano e sai, devi considerare che sono in tanti e il lavoro è ancora quello che è, insomma c'è ancora una disoccupazione al 10%. E quindi voglio dire... Sta meglio di noi, insomma. Sono persone di fondamentalmente sono ospitali, cioè l'ospitalità è nell'indole indiana. E poi specialmente negli alberghi dove lavoro io, questa ospitalità è ancora moltiplicata per politiche aziendali. Vabbè. Ma il fiore all'occhiello dell'India, dovessi dire, cioè una delle cose che hai trovato che più ti ha colpito? No, direi proprio questa, l'ospitalità è il senso che ti danno di essere il benvenuto. Ma che bello. Se sei occidentale. Alessandro, allora ti lasciamo la tua curry bonara che... Allora, feature in maniera se dopodiché ti rimpatriassero all'istante, noi non siamo responsabili. Io metto l'ha le apprezzata, è inutile che voi mi denigriate così, perché lui l'ha apprezzato molto, inutile negarlo. Ti è venuta subito la un grande abbraccio a Chennai, Alessandro in India. Sentiamo invece Gino da Milano che ci ha chiamato, che ci vuole dire. Gino, buongiorno. Ciao, mi sentite? Bene. Sì. Bene, senti, il mio caso è come quello che avete detto di Parma, in cui una signora ha rubato 400.000 euro e gli hanno assegnato la casa popolare. Sì, in che senso? Le ha rubate anche lei? Ci stavo arrivando, se mi fa finire. Il mio caso è praticamente uguale, ma l'eccellenza italiana mi ha derubato di una cifra doppia, ma la casa popolare non me la vogliono dare. Allora, è andato via un attimo la linea. Chi le ha rubato? Allora, l'eccellenza italiana, che e sono le assicurazioni, tanto per essere chiari, che voi ben conoscete, mi ha defraudato. Il nostro fondo pensione in questi giorni è fallito, non si sa per quale motivo, e mi ha rubato il triplo della signora. Sì. Mi danno una pensione di 110 euro al mese. detto questo, sono andato alle case popolari, ma non ho i requisiti. Ma... allora la mia domanda è, visto che la signora rubando 400.000 euro è riuscita ad avere una casa popolare, cosa posso fare io o che cifra dovrei rubare per avere una casa popolare? Nessuna, Gino. Non è che ha avuto la casa popolare perché ha rubato. Non è un modo per salire nella graduatoria. Pur avendo rubato, ha ottenuto per i motivi spiegati una casa popolare. Ma non è che... Abbiamo spiegato che nella fedina il fatto che la fedina penale possa avere dei precedenti, possa non essere del tutto pulita, non incide nella graduatoria per avere la casa popolare. Non è che aver rubato i soldi le ha fatto guadagnare posti, ecco, questo mettiamola così. Non è un modo per sbrogliare le pratiche più in fretta, e uno diceva adesso vado a fare un furto e poi non dovrebbe andare così. È un peccato. Effettivamente poteva essere un sistema comodo, perché snello, però facile, ma andiamo al traffico. I funamboli. Siamo qui, cara Veronica e caro Leonardo Manera, è venuto a trovarci ancora da Parpo direttamente. Sì, buongiorno a tutti. Peter è successa questa cosa, c'è stato un episodio di bullismo lì da noi a Parpo. E lei viene a dircelo. Ma di nuovo, ma succedono in continuazione lì a Parpo? Praticamente un signore è uscito con una donna e le ha aperto la portiera della macchina. E questo è stato qualificato come bullismo. Bullismo? Galateo. Sì, perché non c'è più nessuno che lo fa, allora lui ha voluto vantarsi. È una forma di bullismo. E allora stiamo mettendo a punto a Parpo il nuovo Galateo moderno, secondo le regole del Galateo. E adesso voi mi dite quali sono i comportamenti giusti. Per esempio, durante una cena, uno dei commensali starnutisce. Cosa è opportuno fare? Si osserva ad alta voce che è un gran maleducato, si starnutisce per fargli compagnia oppure si va via. No, ma non lo so. Come comportarsi se il figlio combina una marachella? Non ci dice la risposta. No, ma poi rispondiamo e non ci dà nemmeno un po' di soldi. Però. Come comportarsi se il proprio figlio combina una marachella in casa d'altri? Si prende a schiaffi il bambino per dimostrare di essere buoni genitori? No. Si porta il figlio in un'altra stanza per sgridarlo, ma ad alta voce in modo che sentano tutti. No. Si urla contro di lui davanti a tutti dicendo anche alcune parolacce per essere più efficaci. Non c'è di altro? Durante un pranzo suggeriscono la terza. Elisa Pancaldi dice la terza. Durante un pranzo formale una pietanza risulta troppo salata. Sì. Qual è il comportamento più educato? Si chiede se in casa c'è un cane. Ma come un cane? Ma no, dai, un cane. Darla al cane? Ma Peter, ma un cane, vabbè. Si fa di tutto per inghiottirla accompagnandosi con alcune smorfie del viso. Questa effettivamente è oppure. Si chiede alla padrona. Cioè Peter, si controlli. Peter, si controlli per favore. Si chiede alla padrona. C'è ancora un po' di sale. Che è questa? Io faccio la C. Forse la pepe, C, sì. Il pepe per prendere un po' in giro. Allora, una capra, magari sa una capra a casa. Più caro Milan, come ringraziare un amico o un'amica dell'invito a trascorrere le vacanze nella sua casa di villeggiatura? Veniamo. Offrendo la moglie o il marito per degli spassi extraconiugali? No. Rimanendo in silenzio tutta la vacanza per non disturbarlo? No. Dandosi da fare per divertirlo il più possibile come un clown. Prendo la B. Io C, mi piace questa idea. Secondo il Galateo tradizionale, quale di questi atteggiamenti a tavola è maleducato? Fingersi ubriachi, denigrare le portate, fischiare quando la padrona di casa passa. La terza proprio no, ecco, diciamo. La terza non è male invece. Quale dei seguenti modi è suggerito dal Galateo per astenersi dal bere il vino a tavola? Si capovolge subito il bicchiere. Si grida io no quando viene offerto il vino. Si copre per tutto il tempo il bicchiere con la mano. Bello, questo è comodo, anche pratico. Opteremmo per la terza, essere la più discreta. Ma non ho capito, però. Peter, ma lei non ci suggerisce delle risposte, no? Durante un viaggio in treno, all'interno dello scompartimento, quale di questi comportamenti è più educato? Lamentarsi per tutto il tempo dell'aria viziata? Non salutare nessuno isolandosi dal contesto? Togliersi solo una scarpa? Sempre B io. Una scarpa, se uno è pulito, io C. Adesso l'ultima. Ultima. Come comportarsi nel caso in cui un ospite stia per appoggiare il bicchiere su un mobile prezioso? avvisare l'ospite appena arrivato che in casa ci sono molti mobili preziosi, ammonendolo, correre a spostare il bicchiere, urlare per impedirgli di farlo. Queste sono le regole del nuovo Galateo moderno. Che, no, che poi quali siano non è chiaro, perché lei non ci dice qual è quella giusta, ma va bene. Varie, vi invito varie. A venire a Parpo per sperimentare le regole del Galateo. Ottimo, va bene. Io quella del cane sul sale, io devo dire che mi ha colpito. Mi ha colpito ho visto molto. Che hai anche proposto la capra, potresti metterti anche tu a scrivere a quattro mani il nuovo Galateo di Parpo. No, la ringraziamo molto Peter, quando ha nuove regole da Parpo ci venga a trovare. Grazie. Grazie a Radio grazie. 24 per ospitalità limitata. Limitata, ecco. Già tanto, guardi, si baci i gomiti. Andrebbe limitata ulteriormente, ma per ora ci... Tra l'altro ci scrivono, cara Veronica, che manca anche molto il sindaco, qualcuno ci dice, ma il sindaco dov'è? Il sindaco di Abundo Minchia. Anche perché siamo al weekend, ragazzi. Vuol dare un consiglio veloce il sindaco. Venite a trovarci a Abundo Minchia, un paese straordinario, perché non c'è una minchia, non c'è ristoranti che si ingrassa, non c'è parrucchieri che cadono i capelli se metti troppo shampoo, e perciò... Venire a trovarci a Punta Minchia. Bello. Cioè, Veronica c'è stata, Io sono stata, guarda, è stato un weekend, devo dire, riposantissimo. Allora, ringraziando Alessandro Chiappini, è giusto? Ebbene sì, sta facendo oh yes con le mani. Insieme a Peter Bescapè sono i nostri due registi a Roma e Milano, insieme a Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, Elisa Pancaldi in redazione. Da Leonardo Manera. Posso dire solo rapidamente che stasera spettacolo a Treviglio, provincia di Bergamo, il primo amore trasloco sentimentale di un padre comico separato. A che ora? Alle 21, Teatro Nuovo di Treviglio. Treviglio, Bergamo. Le raccomandazioni che vi faccio per il weekend, niente smart drugs, questo ve lo dico, almeno per voi, perché sennò lunedì mi ristate qua, e per favore controllate non il telefono, ma il semaforo quando attraversate la strada. Tanti auguri all'Inter per il derby.